Europa 24. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, nuovo appuntamento con Europa 24. Oggi parliamo delle nuove prospettive europee per la Turchia, prospettive che in molti hanno invocato dopo il risultato del voto dello scorso giugno. Accolti con favore da Bruxelles, salutati come un segno della maturità democratica del paese, i nuovi equilibri interni promettono di cambiare molti degli attuali scenari geopolitici, non solo in Medio Oriente. Secondo gli analisti, la politica estera del paese subirà numerosi cambiamenti. In primo piano c'è ovviamente la Siria, ma in molti iniziano a sottolineare come il nuovo corso turco possa ridare fiato agli europeisti per la ripresa dei negoziati sul trattato di adesione all'Unione Europea, paralizzato di fatto dalla stretta autoritaria imposta da Erdogan. Anche in caso di ripresa dei negoziati, però, non è prevedibile un ingresso a breve, come ci ha spiegato Valeria Talbot, ricercatrice dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. In realtà la situazione dei negoziati di adesione tra Turchia e Unione Europea è molto più complessa di quello che si rappresenta, nel senso che è vero che gli eventi in Turchia degli ultimi due anni, quindi la stretta autoritaria, la stretta sulla libertà di espressione e di stampa, questa erosione del processo democratico, di quelle importanti riforme democratiche che lo stesso AKP aveva portato avanti nella prima fase del suo mandato politico, e anche appunto un'erosione del principio di ripartizione dei poteri, erano stati molto criticati da Bruxelles. È anche vero però che i negoziati di adesione tra Bruxelles e Ankara sono bloccati anche da altri fattori, primo tra tutti l'irrisolta questione cipriota. Quindi finché appunto non ci sarà una soluzione della questione cipriota, la Repubblica di Cipro, che è membro a pieno titolo dell'Unione Europea dal 2004, continuerà a porre il proprio veto su importanti decisioni e sull'apertura di capitoli negoziali con la Turchia. Ricordiamo che Cipro blocca diversi capitoli negoziali, alcuni capitoli sono bloccati dalla Francia, altri capitoli sono stati bloccati nel 2006 dalla Commissione Europea proprio per il mancato rispetto da parte di Ankara del protocollo addizionale all'accordo che avrebbe dovuto estendere l'Unione doganale che la Turchia ha con l'Unione Europea anche alla Repubblica di Cipro. Mai, come dire, un processo di adesione è stato così travagliato, lunghissimo, le origini risalgono addirittura a 30 anni fa, i primi avvicinamenti. Sì, in realtà già nell'accordo di associazione che la Turchia firmò con l'allora Comunità Europea nel 1963, era previsto che l'Unione Doganale, che appunto veniva indicata in quell'accordo di associazione, sarebbe stato il primo passo verso un'integrazione più stretta della Turchia in Europa. Il processo è stato molto travagliato, già una prima volta nell'87 la Turchia aveva presentato domanda di adesione che era poi stata respinta da Bruxelles, ed è soltanto nel 1999, quindi dopo l'ingresso dell'Unione Doganale nel 1996, che la Turchia ottiene lo status di paese candidato. Si dovrà aspettare la fine del 2005 perché vengano avviati ufficialmente i negoziati di adesione. È comunque difficile prevedere uno sblocco della situazione a breve, insomma, in tempi brevi. La questione è da vedere anche in un'altra prospettiva, nella prospettiva di Bruxelles. Il presidente della Commissione Europea Juncker, durante il suo insediamento a novembre 2014, ha detto che nel corso dei 5 anni della sua presidenza alla Commissione Europea non ci saranno nuovi allargamenti. Quindi se i negoziati con la Turchia dovessero riprendere, e ricordiamo che sono innumerevoli ancora i capitoli negoziali che devono essere discussi, anche se ci sarà una ripresa, un ingresso della Turchia nei prossimi 5 anni, oramai 4 anni e mezzo, non è prevedibile, non è previsto anzi. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Luisa Pezzali. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.